c'è nessuno! Dommi, dommi! Chi è? Chi è? Non sei uscito! Ah! Roba! Ti hanno schiacciato! Avanti, riprova! Non ti sento! Bello bene! Non stai uscendo! Chi sei? Non ti sento! Non ti copio, non ti sento bene, stai uscendo male, mettiti in una posizione bene! Sì, metti a 90 gradi! Stai uscendo a pezzi, mettiti in un'altra posizione, spostati a vedere da lì! Ehi! Chi è? Non si comprende nulla. Ma lo senti, grazie, ma insomma. No, lo senti a tratti, chi è? Vai, leggerti e guardati il telefono, vai. Aspetta, non te ne andare come fai tu il cucù, che ti devo chiedere una cosa. Barrato! Ehi, you! Male. Luca, magari io non risento, lo sento malissimo. Sento Luca. Facendo. Oh Luca, aspetta un attimo, che sto guardando qua un roadmetro battametro. A vedere questo se va bene. Allora, sui bei 89 euro costa, più spedizione, direi con le caratteristiche. Allora, aspetta. RS600 Max Rosmetro Vatametro, quello va bene per la 27 per il PMR. E beh, mi rispondi bella me, ho dormito, sì. E io, e cos'è, non le digerisci la spara di quella ziota, eh? Giorni Marina, dormita sì. Chi è che non ti sento? Papà, sai che adesso ti stavo ascoltando. Non ti sento bene, no? Cercati un punto buono, più in alto, spostati a destra, a sinistra. Negativo, morto sì. Comprati una radietta come si deve, che quella non serve, quella è un walkie-talkie, bella me! casa che si sente il mare. Attento, Graziano. Ma tu sei? Che stai galleggiando nelle onde? Attento, Graziano. Dimmi. Mi scusi. Adesso sì, mezza guerra e mi mangiate il tiro fuori per le orecchie. Ma faccio questo uscendo. Prova! O stai uscendo o no, Bacchi? Non sto uscendo. So, quasi che ti funziona. Sì, lo guardo adesso. Fa passaggio. Sono 5 6, 4 3. Senti. Tutta scorreggi, stai uscendo, Bacchi. Mi sto uscendo. Stai scorreggiando, non ti sento. Oh, adesso lo guardo. Oh, va bene, è male. Chi era quello che ha parlato adesso? Buonasera, Bacchi, da questa parte. Ehi, aspetta che provo la antenna. Che provo la antenna per un po', perché stavo provando un'antenna. Anche per me, Bacchi, stai facendo bene. Buonasera, ciao Fabrizio. Ehi, vedo un po', Fabri, buonasera Graziano. Ah, Fabrizio, e buonasera anche a Tino. Bacchi, da questa parte, dunque, vedi un po', adesso cambio antenna. Eia, ma che anche da parte mia sei quasi fondo scala qua, eh. Siamo un pochino più distanti. Sì, ok, dai, provo l'altra a vedere un po'. Graziano un pochino su di Cinei, eh. No, detto che non ci va più lì, no. Ha detto che lì non si fanno più affari. Vedo un po' adesso, Fabio. Questo è un piccolo tempo. Vedi un po'. Vabbè dai, rimango un attimino qua lì, se facendo una cosa al PC, Fabri, riprendi tu e fai girare, eh. Ciao. E sono qua, sono in quel X. Vedi un po' fino come sto andando adesso. Ehi, dimmi Fabri. No, non ho sentito perché a parte anche a te ti sento a pizzi, adesso ti stai muovendo qualche cosa. Chi era l'altro? No, assolutamente. Vedi un po' Tino se mi ascolti adesso. No, no, non ascolto. Ma chi non ti sento, eh? L'altro era un altro, ha detto, questo l'ho detto scritto. Questa c'ha uno che sta chiamando. Perché l'altro no. Va bene, dai che sta con tutto, me ne vado giù, provo con la giù, uno si sente. Andiamo bene me, dai, riprendi Fabri, tu ricchi per me. Sì, Fabri. Questo c'ha uno, 1,00 di stazionale, invece quello c'ha un'altra, 1,2. Sto provando perché sono appoggiato, non sono più appoggiato, sono appoggiato sul muretto. No, questo non era un film, se lo hai una verticale. Sì, adesso ho cambiato. Questa è una figura che non prende anche questo vista. C'ha 1,00 di stazionale. Ma l'altro in alto, in una verticale. Sì, dunque. Aspetta, se sono preso un giornato, buttata così, sono lì a qualche mese da te. Ehi, ok, come stazionale è illuminato. 1,00. Perché l'altra invece la verticale, come io in alto, ha 1,2. Come fatto? Allora, insieme agli altri, poi è lui. Non ti rispondo, quindi. Grazie. Non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si può fare, non è che non si quasi da rifarmi allora. Ciao, buona pace greca, buona pace giacca. Bacchi! Bacchi! Okay. Ciao! Prova a togliere i bitti a fare se sei più alto! Togliere i bitti! Ma sono! Ma c'è Gian Maria, mi ascolti! A ti sento, basta, ma a ti sento! Come? Allora è malato! Passa il 27, Bacchi, dai, siamo il 27. Graziano e c'è anche Natalino. Sì, andiamo 27, dai. 2 e 7. Come sono uscito? Pulito. Guarda adesso, 1, 3, 4, 5, via. Non mi senti? Attento, sto graziando. Guarda adesso, se vuoi che mi ascolti. Guarda, mi stai ascoltando. Guarda adesso, Gian Marico, mi ascolti. Non arrivo, no. Non ti ho sentito, non mi rispondi, ah, mi senti adesso? Ah, ti sento. Attento, Gian Maria, mi ascolti. Ah, ti sento, ma chi? Sono Giulio, dai, già ti sento io. Oh, buonasera, Giulio, mi ascolti giù tu? Sì che ti ascolto, ma chi? Come basso, normale come sempre. No, un po' più basso di prima. Prima ti sentivo proprio chiaro. Adesso c'è un po' di QRM sotto. Sento un rumore strano. No, c'è il rosmetro inserito. Aspetta che tolgo il rosmetro a vedere. Ok, beh certo, se c'è il rosmetro, questa frequenza se la mangia. Aspetta che lo stacco. Sta cambiando, sta togliendo il rosmetro. Ciao Gian Maria. E vedi un po' adesso se mi ascolti. Adesso è a bomba. A bomba? A bomba è adesso, Bacchi. Ascolta, grazie. Grazie, ma cosa stai dicendo? Ma se li intengo io, benissimo, li intengo. Gian Maria, mi ascolti? Gian Maria, ma non lo senti a Bacchisio? Sì, stai facendo benissimo, Bacchi, a bomba, proprio a bomba. Oh, strano. Graziano, tu mi ascolti? No, Graziano ce l'ha staccato. Sono in FM, Graziano. Avanti, Graziano, mi ascolti? Senti Bacchisio, Maria non ti sente, ha detto. Bacchisio. Sì, dimmi. Aspetta un attimo, aspetta grazie un attimo che sto parlando con Bacchisio in PMR. Stavo dicendo, Gian Maria non ti sente. Guarda un po' se mi senti adesso. Da giù, no, Gian Maria non ascolta. Non capisco perché. Avrà qualche problemino lui, io ti sento benissimo, forte, molto forte. Sono con l'antennino, non con l'antenna casa, con l'antennino sto andando. Perché ha 1,8 di stazionario, 1,8 di stazionario. Va benissimo, va, un Bacchi, dai, no, a 1,8 lo puoi usare tranquillamente, non ci sono problemi, figurati. Sai quando è che è pericoloso? Quando comincia a essere vicino a 3, allora sì, ma a 1,8 già va bene, ha voglia. Te lo porto a vedere questo fareggio qua. Che tu inglese ne mastichi, Giulio. Ho capito. No, ascolta, comunque se vuoi puoi abbassare le stazionarie, mi. E basta regolare l'antenna, quella che hai avuto costruito tu l'altro giorno. E quella lì sto usando adesso. Te l'ho detto, prova a fare 18 cm in radiali. La tua uno l'avevi fatto 25, gli altri ne avevi fatti 20. Prova a fare tutti quanti 18 cm e vedrai che va bene. Ci provo. Adesso no, domani ci proviamo giù. D'accordo, Bacchi, certo, te l'avevo detto l'altro giorno, il radiale per quella frequenza buono 18 centimetri, poi naturalmente bisogna vedere anche il cavo, tante cose ci sono, dai, ma in ogni modo la misura giusta è 18 centimetri a ogni radiale, e anche quello centrale mi è uguale, sempre che 18 centimetri. Ho capito, ho capito. Bene, bene, dai, adesso passiamo in 27, che sono in 27, Giulio, ricordo, su Maria e Graziano. Ok, poi c'è anche un'altra cosa, Bacchi, l'inclinazione dei radiali deve essere rispetto a quella centrale 45 gradi, perché le stazionarie possono essere anche quelle, se è più largo o più stretto possono essere quelle, cerca di metterla a 45 gradi. Se domani ho tempo me la metto in macchina e te la porto a vedere. Ok, d'accordo, Bacchi, già sono sempre in magazzino, dai, che sto terminando. Ho finito praticamente di impalacare quasi tutto, c'è pochissima cosa. Vieni, vieni, già sono in bottega, dai. Che cosa, il pavimento fatto lo hai? No, devo fare il massetto prima faccio 2-3 cm di massetto e poi il pavimento. Non ti azzardare a fare il massetto, te ne salta tutto Giulio. Sai cosa fai? Lo pulisci bene, compri due sacchi di livellante, li sciogli nell'acqua e lo butti, quello cammina da solo, si livella tutto in piano, capito? Beh, se ne faccio 2-3 cm di salsa, come fa a saltare? Perché quel pavimento è tutto messo male, e poi a togliere quella vernice, come faccio? Tutta la vernice di tutte le volte che ho spruzzato, dai, a pezzi, e poi non è nemmeno a livello, perché quando piove, l'acqua che cade sulla soglia all'ingresso, me ne scende dentro, me ne scende. Allora lo devi un po' con la mola fare dei surfi, con la mola. Lo devi un po' irruvidire perché non ci attacca e ti viene isolato. Un giorno o l'altro quello si gonfia e poi esplode. Ma così succede? E dunque io faccio con la mola, faccio dei tagli nelle mattonelle che ci sono adesso, così? Esatto, li fai dei tagli a modo che si agganci, che abbia un ancoraggio. Hai fatto bene, ma chi a dimmelo? Faccio così. Faccio dei tagli, non la mola, non ci sono problemi. Faccio dei cosi, dei, oppure tocco di tanto in tanto così qualche mattone, così aggancia, no? Anche, cioè, no, li passi la mola, li fai dei tagli, delle fregature, basta che abbiamo un ancoraggio. Lo pulisci bene, lo scopi bene, lo bagni e fai il massetto. L'indomani puoi fare il massetto quando asciuga un po', cioè, perché se metti in mezzo all'acqua non lo cavi i piedi. Ah, ho capito, allora faccio così, dai, hai fatto bene a dimmelo, Bacchi. Faccio già la mola già ce l'ho, non ci sono problemi. Mi diverto, faccio un po' di tagli, anzi un po' abbondante ne faccio, e poi faccio il bassetto. D'accordo. Già ci sono con domani, dai, a vedere un po' faccio vedere il lavoro così ne parliamo. D'accordo, Bacchi, sono in bottega, d'accordo. Va benissimo, a domani. E a domani Giulio, ce la vediamo domani. Adesso scontiamo il 27, cosa dicono? Ok, in questo momento non c'è nessuno il 27, ma forse stanno ascoltando il PMR. Aspetta che chiamo. Attento, Graziano, ci sei il 27? Già c'è, ma chi, già ci sono, dai. Aspetta che stiamo passando lì, Graziano, stiamo passando lì. Ehi, andiamo lì, dai Giulio. Bene, bene, avanti Graziano. Beh certo, quando schiacci la portante della 27 quello si impalla, sì. Sì, ma succede così. Che te sto buffo!